Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta, riaprendo con un brano piuttosto lungo ma sicuramente suggestivo per riaprire la seconda parte di 451 frammenti sonori, per coloro che si fossero messi soltanto ora in ascolto di Radio Città del Capo. 451 frammenti sonori, trasmissione che va in onda ogni domenica dalle 23:30 alle 2 di notte circa, trasmissione stasera che tratta il tema, la tematica connessa alle aritmie natalizie, appunto aritmia e regolarità del ritmo cardiaco, riportato ovviamente sul piano musicale ma anche direi sociale e temporale rispetto al tempo che ci stiamo vivendo ora in questo momento, 2010, ormai alla fine di questa decade degli anni zero, si apriranno gli anni 10, chissà cosa succederà. Comunque già dei segnali almeno di radicalità che sta piano piano emergendo in questo paese ci sono, insomma, negli ultimi mesi. Ne abbiamo appunto parlato all'inizio, all'esordio di 451, nella prima parte. Aritmie natalizie abbiamo aperto nella prima parte con Felix Kubin, per passare poi a Dirty Projectors, poi attraversando Wolfgang Mitterer e chiudendo con un piccolo frammento di Frank Pall. Abbiamo riaperto invece con un interessantissimo personaggio che è nato negli anni 90 a livello musicale, poi ha sviluppato il proprio percorso negli anni zero, nato all'interno di un glitch, anche per certi versi un primissimo glitch pop, però estremamente aperto alle sperimentazioni, alle ricerche sonore. Non a caso il grande Dean Roberts ha costruito poi delle collaborazioni con personaggi che si sono mossi e si muovono ancora sul terreno sia della musica contemporanea, delle avanguardie e delle sperimentazioni elettroniche. Il disco che abbiamo inserito in apertura di questa seconda parte è uscito nel 2000, oltretutto per un'etichetta che non c'è più, che ormai è chiusa, la Mill Plateau, che appunto nel 2000 fece uscire questo splendido lavoro che si intitola Dean Roberts and the Black Moths Play the Grand Cinema, ed è un disco costruito in due tracce molto lunghe che fondamentalmente costruiscono un percorso molto irregolare, inserendo varie strumentazioni elettroacustiche come violoncello, chitarra, organo, armonium, basso, contrabbasso, e trattati poi successivamente in un processo digitale post che riframmenta le varie parti, costruendo appunto un percorso molto irregolare, molto disomogeneo ma estremamente affascinante, oltretutto con l'inserimento di testi e di liriche vocali anche abbastanza suggestive all'interno appunto di un fenomeno glitch che ormai già nel 2000 si stava aprendo, soprattutto in quegli autori che stavano capendo che certe cose stavano mutando. Non a caso di Roberts poi si è affacciato e si è avvicinato anche a forme rumoristiche, noise molto astratte, che riescono perfettamente anche a coniugarsi col percorso precedente legato al glitch. Un glitch comunque che non si è perso dietro degli stili piuttosto stereotipati e estremamente autoreferenziali che poi hanno attraversato gli anni zero, altre etichette. In quel senso almeno la Mill Plateau, che ha portato avanti un discorso di grossa ricerca sperimentale ed avanguardia negli anni 90, non è caduta almeno in quel buco nero che ha attraversato molte formazioni e che poi si è appunto coniugato con un percorso degli ultimi anni abbastanza poco innovativo e poco interessante. Oltretutto in questa formazione del disco appunto in questione era presente anche questa pseudo Black Moths, che in realtà è un nome che viene dato ai collaboratori di Dean Roberts, cioè Tim Barnes, il grande Charles Curtis e Matt Valentine, che appunto hanno lavorato nella costruzione di questo splendido lavoro uscito nel 2000. E adesso invece andremo a presentare il prossimo progetto. Cambiamo un po' scena musicale, ma sempre all'interno di queste aritmie piuttosto deflagranti e disorientanti, andiamo a trovare una formazione nata a Baltimora proprio nella fine degli anni 90, inizio anni zero, la grande formazione degli Animal Collective, già inserita un paio di volte all'interno di 451, con appunto un percorso, quello degli Anime Collective, estremamente interessante. Inizialmente hanno preso spunto a livello musicale da gruppi importantissimi come i Residents, i Flaming Lips, l'incredibile String Band e The Holy Modal Rounders come appunto riferimento musicale, per poi sviluppare delle progettualità estremamente innovative che si sono mosse all'interno sia del noise rock, del freak folk, dell'ambientron e anche di una certa psichedelia, con delle anche punte estremamente interessanti e melodiche. Formazione quella dell'Anime Collective che iniziò a avere un certo successo facendo diciamo il gruppo spalla a Black Dice all'inizio degli anni zero, dunque un'altra formazione fondante del periodo di 451, degli ultimi tre anni che abbiamo focalizzato molto l'attenzione sulla nuova scena noise americana, e un Animal Collective che con il disco più importante, quello che ha avuto sicuramente più successo, Here Comes the Indian, che abbiamo già mandato in onda in vecchie puntate di 451, esplodono a livello musicale, costruiscono appunto delle costruzioni musicali estremamente interessanti, aperte sia a influenze dal passato e sia verso dimensioni sonore nuove e appunto verso una dimensione sicuramente più proiettata al futuro. Il disco che andiamo a trovare e a farvi ascoltare in parte, ovviamente con una traccia, è Sung Tongues, che è uscito esattamente nel 2004, se non vado errato. Vediamo se non mi sbaglio, sì, nel 2004, dunque è andata bene. Formazione questa dell'Anime Collective, Sung Tongues riescono a registrare, a farla distribuita dalla Fat Cat e costruiscono un disco estremamente suggestivo, con delle parti anche che ricordano certe dimensioni che non te l'aspetteresti dagli stessi Animal Collective, una dimensione appunto che attraversa tutte le influenze musicali e tutte le dimensioni sonore, molto connesse ovviamente al loro riferimento principale, quello psichedelico, ma anche ai deliri e alle costruzioni assolutamente provocatorie e assurde e assurdiste, come direbbe il buon Max, che oggi manca, che stasera manca, dei Residents. Andiamoci ad ascoltare anzi un paio di tracce da questo splendido lavoro uscito nel 2004, Sung Tongues, Animal Collective. Ed ecco, rientrati in diretta, splendido questo viaggio, viaggio psichedelico, folk psichedelico dell'Animal Collective, splendido anche l'album, lo ricordiamo ancora, Sung Tongs, uscito nel 2004. E continuando il nostro viaggio nelle aritmie, andiamo a trovare un personaggio, insomma, che ha fatto la storia della musica contemporanea, delle avanguardie, aperto a tutta la scena musicale, facendosi attraversare anche da scene che non facevano parte della propria formazione, avendo studiato musica contemporanea ed essendo stato uno dei maestri della musica d'avanguardia, della scena minimalista. Parliamo del grande Moondog, in arte Moondog, Louis Thomas Hardin, personaggio fondante da cui hanno anche tratto insegnamento i grandi del minimalismo come Glass e Reich, ma è stato anche importante per il grande Harry Parch, ma anche stato seminale per moltissimi progetti della musica elettronica e anche per progetti che potrebbero essere indicati anche tra quel pop estremamente aperto ed elettronico che ha attraversato anche gli anni 90 e gli anni 0, che ha tratto molto dalle sperimentazioni di Moondog. Moondog lo andiamo a trovare in un disco non famosissimo, uscito qualche anno prima della sua morte, nel 1999, e il disco in questione infatti uscì nel 94, un disco molto interessante insieme alla London Saxophonic, Sax Pax for a Sax, un lavoro interamente costruito sull'orchestrazione di fiati, ma un'orchestrazione assolutamente atipica, molto irregolare e molto disorientante nella costruzione intera di brani, frammenti di brani estremamente corti, non superavano mai i tre minuti, non superano anzi mai i tre minuti. Andiamo ad ascoltare due frammenti proprio per omaggiare il grande Moondog e poi collegarlo a un grande che purtroppo è venuto a mancare proprio ieri, un personaggio anche lui fondante della scena rock, un rock estremamente trasversale degli anni 60 e fino appunto ai giorni nostri, ma andremo poi a presentarlo in maniera doverosa. Intanto Moondog con questi due frammenti da Sax Pax for a Sax. Thank you. Siamo rientrati in diretta con questo omaggio appunto a Moondog, un personaggio assolutamente fondamentale della scena della musica contemporanea, della scena minimalista, pur essendo appunto, l'abbiamo detto, molto aperto a contaminazione ed aperture anche in territori distanti dalla musica minimalista, dalla musica in particolare contemporanea. E adesso andiamo purtroppo ad omaggiare invece un grande che se n'è andato solo 2 giorni fa e appena appunto mancato un grande personaggio dalla scena del rock più obliquo possibile, con influenze sia da parte del territorio jazzistico, sia quello funk, sia quello proto-punk, sia quello legato al rock sperimentale, fino ad arrivare addirittura alla new wave in dischi fine anni 70, inizio anni 80. Oltretutto grande collaboratore del grande Frank Zappa, un altro personaggio appunto fondante di tutta la musica che ha attraversato gli anni 60, 70 e anche gli anni 80, assolutamente underground, assolutamente radicale nelle forme e nelle non forme della costruzione musicale, nel modo anche di porsi sul piano appunto di personaggi pubblici. E grandissimo, mancato purtroppo da poco, il grande Capitan Beefheart, che ovviamente noi omaggiamo e salutiamo prendendo spunto da un disco appunto del primo rientro dopo 4 anni in cui si era fermato, dal 66 fino al 74, aveva continuato ininterrottamente con vari album e varie collaborazioni Capitan Beefheart a costruire appunto percorsi musicali e per varie vicissitudini personali, sperimentazioni di droghe varie, si era fermato per 4-5 anni e al suo ritorno nel 1978 esce questo splendido lavoro Sheeny Beast, che si sente insomma lo stesso Beefheart interessarsi a quello che poi appunto diventerà la new wave. Sta nascendo appunto quella scena estremamente aperta a ogni tipo di contaminazione, che sembra completamente calzare a pennello rispetto alla dimensione del personaggio Capitan Beefheart. Ci andiamo ad ascoltare un brano, un rock assolutamente obliquo, quello costruito da Capitan Beefheart in questo splendido album, che vi ovviamente ricordiamo di andarvelo a riascoltare se ce l'avete, o ad andarlo a pescare da qualche parte se volete avere proprio il vinile. Mi sa che è un po' dura, ma un CD acquistarlo non credo che siano grossi problemi. Ormai adesso poi ci sarà sicuramente qualche ristampa, qualche omaggio, qualche cofanetto, speriamo che non speculino molto sulla morte di questo grande, anche se non era sicuramente un personaggio dentro l'establishment musicale, produttivistico, insomma non faceva parte della fabbrica di produzioni continue di merci, ma si sa che il mercato mangia tutto, si magna tutto, anche coloro che vanno in controtendenza e in opposizione a questo. questo. E Capitan B, oppure ve lo andate a ascoltare attraverso i vari canali telematici e internet che vi permettono di avere i materiali anche in maniera gratuita. Intanto ovviamente ci andiamo a ascoltare, omaggiare Capitan Beefheart con un brano tratto da Shining Beast 1978. Ciao Capitan Beefheart. Si vede che purtroppo anche gli strumenti elettronici vogliono bloccare Capitan Beefheart nel lancio del brano. Incredibile ma vero, ma il CD non viene letto. Adesso cercheremo di trovare un escamotage affinché il brano possa essere mandato, perché questi sono gli intoppi del mestiere, purtroppo. Niente, non lo vuole leggere, dobbiamo trovare una via alternativa. Nel frattempo facciamo una forzatura un po' triste, come si suol dire, e mandiamo qualcosa che doveva andare successivamente per non lasciare un buco spaventoso, ma purtroppo ultimamente alcuni lettori hanno dei problemi. Oltretutto coloro che avessero un lettore CD stiano molto attenti, perché in prospettiva non ne trovate più, per cui è meglio che riparate quello che avete, perché ormai la produzione dei lettori CD non esiste praticamente più, se non a livelli hi-fi ma abbastanza elevati, per cui il lettore minimo che trovavate prima qualche anno fa non lo trovate più, ed è triste andare a comprare dei lettori DVD o cose di questo genere per la qualità sonora, che è abbastanza triste. A questo punto viriamo, mandiamo quello che doveva andare successivamente, faremo un collage purtroppo forzato, anche se era bello inserire Capitan Beefheart insieme a Moondog, ma a questo punto il buco rischia di essere pesante, la lettura del CD non si sblocca, e dunque lanciamo Victor Joachim dall'album Flow, un disco molto interessante. Poi rientreremo e parleremo in maniera diffusa, in maniera più precisa, di questo lavoro. Dunque viriamo in questa maniera, Victor Joachim. I don't want not to be close. Thank you. E dopo Victor Jacquim dall'album Flow del 2006, un lavoro molto molto interessante, un'elettronica sperimentale aperta soprattutto all'uso con strumentazioni elettroniche e diciamo manipolazione della voce utilizzando appunto anche delle dimensioni frequenziali, delle sonorità estremamente interessanti con frammentazioni figlie per certi versi anche di un glitch anni 90, ma riportate in una dimensione sicuramente più aperta e più noise come suono, come grana di suono, come sporco sonoro, più ovviamente connesse agli anni zero, a questa ultima decade che stiamo ormai accingendoci a veder finire. E finalmente, trovando un escamotage abbastanza strano, ce la faremo a questo punto via digitale ad ascoltare il grande Capitan Briefer. Ricordiamo ancora l'album Shiny Beast 1978, peccato che non si è potuto fare il collegamento diretto con Moondog. Lo faremo con un altro personaggio invece più recente che si muove in un rock obliquo sicuramente differente da quello di Captain Beefheart come attitudine, come costruzione e come universo sonoro, ma almeno c'è una vicinanza dal punto di vista appunto della sperimentazione su un rock estremamente aperto e obliquo, e sarà Michel Blanc che poi andremo a presentare in maniera più doverosa alla fine del brano. Intanto Captain Beefheart, finalmente Shiny Beast. Irene were a couple that lived in the green. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. Ran a canteen. Ran a canteen. Two people, Harry and Irene, like you've never seen. The floor was made of oak, the dough was smoky gray. Their tuna sandwiches would turn the dark into day. They sold wine like turpentine to painters. They took the social life like props to aviators. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. Harry, Irene were a couple that lived in the green. Ran a canteen. Ran a canteen, took Harry for all of his green and Irene. Harry was left holding an empty canteen. And by the way, folks, it was Dusty, not Harry. What does this mean? What does this mean? What's the meaning of this? Poor Harry, I guess. Adrien, classe 1912, grenadier d'élite, s'est hardiment risqué sous les feux les plus violents pour assurer la transmission des ordres au cours des combats. 7 novembre 1916. A progressé dans un boyau occupé par l'ennemi comme premier lanceur, faisant 7 prisonniers. Thank you. E siamo ritornati in diretta, abbiamo fatto questo mix, finalmente ce l'abbiamo fatta a mandare Capitan Beefheart, e subito dopo abbiamo collegato i due brani di Capitan Beefheart, appunto un omaggio al grande musicista, ormai anche lui se n'è andato a 69 anni, nemmeno vecchissimo, purtroppo anche lui se ne va. Dobbiamo abituarci, mi sa, anche per il futuro, che qualcuno dei grandi che hanno attraversato le musiche sperimentali, dato che noi attraversiamo dagli anni 50 in poi, alcuni ovviamente se ne andranno per una questione ovviamente biologica, fisica, e dunque dobbiamo abituarci anche a degli altri addii. Chiaramente abbiamo fatto un omaggio a lui, dovevamo collegarlo a un altro grande storico, Moondog, purtroppo è dovuto saltare per un problema tecnico. Abbiamo ascoltato in collegamento a Capitan Beefheart un artista piuttosto recente, nato negli anni zero nella scena francese, un jazzista però molto aperto. Abbiamo ascoltato il primo dei due brani, molto rock, molto aggressivo, con un suono sicuramente ruvido, anche se la sua diciamo provenienza è più jazzistica, ma un jazz molto aperto, anche astratto. Abbiamo ascoltato in maniera molto chiara nella seconda parte un jazz etereo, aperto, con queste parti di parlato più che di cantato inserite nei vari brani. Lo sentiamo ancora adesso in sottofondo, un altro brano di questo disco, Michel Blanc, appunto uno della scena degli anni zero, un nuovo francese. Il disco in questione è uscito nel 2008, recentissimo, a fine 2008, Les Onze Tableaux de l'Escouade. E sempre nel tema francese andiamo a chiudere i nostri viaggi nelle aritmie natalizie con un altro progetto francese, Silic, un progetto che vede la presenza di due personaggi che abbiamo trattato in passato nella scena delle musiche ambientali, nell'estetica ambientale microfonata, i suoni appunto che poi vengono trattati successivamente, questa estetica dell'assenza dell'estetica anche sonora ambientale. Parliamo di due personaggi, Sylvie Laroche e Harry Lacazac, che abbiamo inserito nei vari progetti che loro hanno costituito tra gli anni 90 e gli anni 0. In questo caso un altro progetto che è nato negli anni 90, ma poi si è sviluppata anche successivamente fino alla fine degli anni 90, inizio anni 0. Poi hanno smesso, ovviamente la Casà e la Roche hanno costruito altri progetti paralleli che abbiamo più volte inserito nelle trasmissioni dedicate a questo tipo di dimensioni sonore, e il disco proprio d'esordio di questo progetto, Occom Icar, è proprio del 92. Ce l'andiamo a sentire per chiudere ovviamente il viaggio di stasera sulle aritmie natalizie, un disco uscito per la musica Maxima Magnetica. Ricordiamo anche che Silica hanno lavorato anche con un grandissimo personaggio come Jim O'Rourke nel disco successivo. E chiudendo appunto il nostro percorso, ovviamente io saluto tutti gli ascoltatori, faccio ovviamente gli auguri di buon anno, perché del Natale non me ne frega niente, e ovviamente speriamo in un 2011 combattivo e regolare, aritmico, se vogliamo prenderlo da quell'aspetto ovviamente connesso all'irregolarità, dunque anche la difficoltà di riuscire a intercettare, a bloccare, a collocare. Speriamo che tutto questo, dato che i segnali di fine 2010 sono buoni, speriamo che nel 2011 qualcosa avvenga, qualcosa veramente cambi. Chiudiamo con questo progetto nell'irregolarità, nell'aritmia, dato che siamo in tema di Natale, abbiamo chiamato natalizio, ma potevamo anche chiamarle aritmie antinatalizie, per cui va benissimo. Poi vedremo come studiare il vero titolo finale da inserire nel blog. Ricordiamo ancora il blog 451frammentisonori.noblogs.org. Ovviamente vi faccio la buonanotte, un saluto da Risio Scarpa. Vi aspettiamo, credo, per il 10 gennaio 2011, a meno che non succeda qualcosa di dirompente, a quel punto saremo solo che contenti. Buonanotte, vi lascio ovviamente con Silic per chiudere il nostro viaggio. Ciao! Thank you. café. Tu trouves ça drôle? Mais réponds!